Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Toglietemi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Parli di meno e lavori di più. Abbiamo moltissimi dossier aperti, quello sullo stadio è uno dei tanti, ma abbiamo i piani di zona, i toponimi, le affrancazioni, sono tante cose sulle quali bisogna lavorare in maniera costante e quotidiana. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see. Assolutamente non ci sarà alcuna colata di cemento, anzi, francamente mi dispiace molto che, come al solito, alcuni giornali abbiano inventato verità che non esistono. Non c'è alcun accordo, stiamo ovviamente lavorando per capire se sia possibile trovare una via di mezzo, ma non c'è alcun accordo, insomma. Siamo l'unica forza che può raggiungere il 40% alle prossime elezioni politiche ed è chiaro che provano a fermarci in tutti i modi. Al governo ci possiamo arrivare se portiamo avanti sempre le nostre battaglie sul reddito di cittadinanza, l'abolizione di Equitalia, le casette ai terremotati che sono stati dimenticati e gli aiuti alle imprese. Webmaster dei 5 Stelle, reduce dalla sua battaglia contro la storia, la geografia e ultimamente contro la grammatica. Buongiorno signori, sono le 6:32 minuti, sveglia, sveglia. A Milano ci sono 6 gradi e da voi, cari ascoltatori, ditemelo, Marco Fornaio di Ravarino. Quanti gradi ci sono a Ravarino? Saluto anche Dieng da Paese, provincia di Treviso. Lì Dieng mi sa che farà un po' più freddo, un po' più freschino, un po' più freschino. 1 grado a Ravarino. In Autolaghi il nostro Andrea ci segue dall'Autolaghi. Ma che è bloccata anche a quest'ora l'Autolaghi? Cioè c'è già traffico alle 6:33. L'Autolaghi è questa autostrada che da Varese, diciamo, da Como, dalla Svizzera porta verso Milano, per cui i pendolari che si riversano verso Milano. 3 gradi sulla Autolaghi. 3 gradi anche a Santeramo in Colle, Bari. Grazie a Irzak. Che bello che ci componiamo di tanti nomi. Irzak, Dieng da Paese, Irzak da Santeramo, Bari. Sei contento? Insomma. Marco da Dubai ci fa sapere che ci sono 25 gradi a Dubai. Salutaci il Tulliani. Pare che il Tulliani, e cioè il cognato di Fini, sia a Dubai da un po' di mesi. Secondo La Verità ha trasferito lì $600,000 e residenza da quest'inverno. Tra l'altro, bellissimo, la Guardia di Finanza è entrata a casa dei Tulliani e hanno trovato tutte le carte triturate. Sapete, con quei, come nei film, quando all'ambasciata ci stanno invadendo, trrr, trrr, trrr, tritura tutto, trrr, trrr, trrr. Ecco, tutte le carte così. Che tutti non... ammalindi. Tutti ammalindi, va bene, dai. A Laterina 0 gradi, a Salerno Anacleto ci fa sapere, ce lo fa sapere caro Vincenzo De Luca, ce lo fa sapere Anacleto, non ce lo fai sapere tu che vuoi condurre qui. 7 gradi e mezzo Anacleto, e mezzo, 7 gradi e mezzo, diciamo. Sarebbe una goduria. Va bene. Mentre Matteo ci fa sapere che ad Amman, ma guardate che cosa straordinaria, Amman in Giordania, meno un grado ha nevicato, Amman. Oh, non pigliatemi per il culo, Matteo, perché guarda che mi arrabbio. 6 gradi a Bruxelles, un ascoltatore. 30 gradi, guarda qua, Alessandro ci scrive da Chennai, India, 30 gradi, Chennai, ci stanno ascoltando a Chennai. Caro Maurizio Bianconi, buongiorno. Buongiorno. Onorevole, la stanno ascoltando a Chennai, India. Credo poco. No, no, no, è vero, è vero. No, no, ecco, no, no, non mi faccia arrabbiare. È vero, è vero. Se vuole, siamo online. Ma ci ascoltano in diretta. No, no, no, no, glielo giuro, glielo giuro. Ma noi abbiamo fatto una rubrica da anni qui sugli italiani che ci ascoltano dall'estero. Ci sono delle cose straordinarie, ci ascoltano di tutto il mondo con la app. Sala app è tecnologica. Basta un click sul telefonino. Ci sono italiani che ci ascoltano da tutto il mondo per sapere che cosa succede in Italia. E noi che gli proponiamo? Maurizio Bianconi. Peggio per voi. Peggio per voi. Ecco qua, da Zagabria ci saluta Rosaria. Da Zagabria la stanno ascoltando. -3. -3. E va bene. Dai, ho iniziato questa cosa dei gradi. Adesso ogni giorno dovrò dire. A Milano 6 gradi, dove c'è Silvia Brasca. Buongiorno Silvia. Buongiorno. È buongiorno. Vero, è confermato. Tu non hai messo ancora il tuo bel nasino fuori dal... No, ma ho visto dall'orologio che ho sul muro. Sì. Dava 6 gradi. 6 ecco. gradi. Bianconi invece dove sta? Bianconi? Sì. Dove sta fisicamente? Io sono a Roma. A Roma. Quanti gradi ci sono? Che ne so. Direzione Italia, il partito di Bianconi. Che tra l'altro ho una curiosità. Apriamo subito il Parlamento, perché ho una grande curiosità. Ma... allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Bianconi, forza, Direzione forza, Italia sarebbe un nome di uno che sta all'estero e vuole tornare in Italia. Ma voi state già in Italia? Direzione, no, Direzione Italia significa intanto l'abbiamo scelto perché i nostri avevamo 12.000 iscritti quando abbiamo fatto questo sondaggio, sì, sì. E ha vinto questo nome qui. Noi pensavamo di dargli un altro, ma ha vinto alla grande. Comunque Direzione Italia vuol dire che tutto quello che facciamo è diretto verso, ovviamente, le soluzioni delle nostre cose. È un'indicazione di volontà. Guardi, intanto mi arriva un messaggio con una foto di neve a Teheran. Una foto, poi gliela giro. Il nostro ascoltatore ci sta ascoltando. No, questo è possibile. A Teheran. E anche da Milton Keynes, Buckinghamshire, UK. 6 gradi, aggiunge anche Bianconi Mito. E un voto all'estero conquistato. E un voto all'estero. Mi chiedono anche, ma Bianconi non sta in una clinica? Effettivamente l'abbiamo lasciato in una clinica l'ultima volta. No, sono stato in una clinica per curare questa malattia che è molto diffusa, che è l'apnea notturna. Ah, l'apnea per notturna. Per cui io non dormivo più. No, non dormivo. E hanno scoperto che in 2 ore avevo 62 apnee, cioè non respiravo ossigeno, e per questo non dormivo. Ah. Allora ti fanno questa prova e poi ti consegnano una macchinetta, sì, per cui finalmente riesci a dormire 6-7 ore filate. Ah, fantastico. Quindi è andato tutto a posto. Dorme. Sì, ma dice che è molto diffuso sta roba qua. No, Silvia, tra l'altro, bellissimo, perché sì, era andato in clinica a farsi fare tutte queste cose per curarsi il sonno. E noi l'abbiamo svegliato alle 6:30 un giorno. Sì, vero. e lui ha risposto dicendo: mi sono rotto i coglioni di dormire. Ditemi. Ma e quindi adesso dorme in Parlamento per recuperare un attimo. No, prima ogni tanto, in effetti, ecco, la voglia viene. Ecco. Cara Silvia, aiutami tu, perché poi mi dirà l'analisi Bianconi. Sai cosa sta succedendo al PD? Siamo alla telenovela, puntata numero 7891, ed è la scissione dietro l'angolo. Questo è il titolo di oggi. La scissione è dietro l'angolo. Ti sporgi e toc, c'è la scissione. Pensavo fossero rimaste le dita negli occhi ieri. Comunque ieri ho visto Renzi a Milano, che è venuto a fare il suo primo giro nelle sezioni. Ero lì, non ha detto una parola, l'abbiamo aspettato, c'era una calca mostruosa, vero, ha avuto anche un applauso all'uscita, qualcuno avanti così, non ha detto una parola, in sezione ma che ha fatto a Milano? Erano tutti contenti. Che ha fatto? Pare che abbia visto Pisapia. Quello è il mistero, è arrivato un po' in ritardo rispetto, ha iniziato a fare il giro sul territorio, sai che adesso vuole all'ascolto del territorio, è venuto, era lì in federazione a Milano. Vabbè, ma è molto non so, carico Bianconi dall'interno del Parlamento, quelli del PD, tanto lei ci parla con quelli del PD, con tutti parlano di scissione? Parecchi sì, ma ormai è, non lo dico con piacere, le garantisco, perché io credo al Parlamento, è diventata una cosa non bella, perché sono divisi a gruppettini di 3 o 4, non di 30 o 40, sì, e viaggiano ognuno per conto suo, giocandosi le diciamo così, le tattiche note ai vecchi congressi. Questo dispiace un po', perché gli avversari, insomma, piace combatterli sulle cose, non su queste, che su queste. Questo non fa bene a niente. No, ho capito, ma si dividono, no, cioè, se hai capito. Io ho la sensazione che ci sia la volontà di ricondurre il Partito Democratico, come posso dire, a virgolette, alla sua tradizione, chiuse virgolette. Cioè, mentre da parte di te, un partito tipicamente di sinistra, può guardare anche al centro, ma è soprattutto un partito impostato più che sulle banche, sulla finanza e sul lavoro, semplifichiamola così, insomma, voglio dire. Va bene. E mentre Renzi, secondo me, legge una Democrazia Cristiana molto allargata, che guarda sia a destra, al centro, che a sinistra, e quindi in effetti sono due linee politiche opposte. Eh sì, e quindi chissà che succede, però pare essere le strategie, non è che dobbiamo stare dietro alle strategie di ogni giorno. Intanto faccio sapere, caro Bianco, l'ascoltano anche dalla Thailandia, in questo momento 32 gradi a Hua Hin. Chissà che caldo. Sì, 32 gradi effettivamente fa un po' caldo. Vabbè, sentiamo D'Alema, anche perché io vorrei reintrodurre una cosa che abbiamo un po' lasciato colpevolmente da parte mia in secondo piano, ma giustamente Lorenzo Nespoli oggi mi ha detto qua bisogna rispolverarla, insieme a Peter Bescapè, sì, lo psicologo di D'Alema. Noi dobbiamo capire che è successo e che sta succedendo nella mente di Massimino Nostro, ecco. I partiti sono tutti diventati delle macchine asfittiche, diciamo. Io penso, sono stato segretario di un partito che aveva 650.000 iscritti, poi ci siamo fusi con un altro partito per farne uno più grande, adesso ce n'ha 180.000, si vede, qualcosa non ha funzionato. Mi sono perso un po' i numeri, diciamo. Ci deve essere qualche... Il contenitore deve avere un buco dove ci sono delle perdite, diciamo. Diciamo. Allora, qual è, se ne ha l'analisi psicologica, il problema psicologico di D'Alema, cara Silvia Brasca? Ah, ma pensavo fosse il premio Giacchetti. No, quello magari ci arriva, il premio Giacchetti. Se vuoi, poi dopo passiamo al premio Giacchetti. Un esubero di personalità. Esubero di personalità. Bianconi, dottor Bianconi, condivide questa analisi? Confonde la sua grande intelligenza col presupposto che al mondo capisce lui solo e tutti quelli altri capiscono un cazzo. Questa è un pochino la... Quindi, si gonfia un po', che tipo di sindrome potremmo... Iper... La sindrome di Gesù Cristo. La sindrome di Gesù Cristo. Non è male la sindrome di Gesù Cristo. Intanto, caro Bianconi, ci fanno sapere i nostri ascoltatori, caro Bianconi, ad Arezzo, Ponticino è brinato. Sembrano un po' quei messaggi tipo Radio Londra. Ponticino è brinato. Ponticino è la patria di Pupu. Sì, ho capito, ma c'è il cavallo Dondola, Ponticino è brinato. È in una buca, per forza è brinato. Va bene. Quindi la rivoluzione è pronta, abbiamo dato questo messaggio occulto. Ma Ponticino che vuol dire? È il nome di un paese? È un paese, perché c'era un vecchio ponte e è rimasto Ponticino. Poi ma è comune? Frazione... Fa comune? Cioè... Aspetti, aspetti, questa frazione si è espansa, per cui ora è un paese, sarà 2.000 abitanti, è sotto 4 comuni. Ah, quindi non fa comune, non c'è il sindaco di Ponticino. Che quello che dalla stanza della casa davanti vota in un comune e quello della stanza della vota in un altro comune. È diviso fra Montevarchi, Civitella, mi pare la Terina e un altro comune. Ah, che miseria, ragazzi. Cioè, beh, insomma, Ponticino è brinato. Ma la toponomastica in Italia è molto più elementare di quello che ci vogliono far credere. Ponticino, il nome, l'origine del nome. Sì. Va bene, allora... Andiamo al traffico, che poi rientriamo, continuano i gradi, a Lentini ci sono 5 gradi per esempio in provincia di Siracusa, oppure, ma come dai, a Luigi da Napoli 25 gradi, su Luigi c'hai la febbre dopo Real Madrid-Napoli, mi sembra, mi sembra 25 gradi, mi sembra un po' troppo, c'è il traffico, andiamo! Mina e danni se sul posto del traffico, va? Caro Alino Milan, ma sul caso Tulliani Fini, non ci viene da chiederci come ha fatto Gianfranco Fini ad accumulare 5 milioni di euro con lo stipendio da parlamentare? Oh Milan, anche tu ti ci metti contro sti cazzi di 5 Stelle! Ma che cazzo ce ne frega della schiava Isaura? Pensa che io oggi ho fatto un titolo, non io, un mio collega, che è la gatta da pelare. Ma, e allora poi mi sono pentito perché ho pensato qui arriveranno gli animalisti e mi spaccheranno il muso perché la gatta da pelare, non so cosa... Niente, Feltri deve difendere la patata bollente in tutti i modi, dicendo che si riferiva a un tubero e quindi quel titolo lì. Oh, ecco, no, devo dire una cosa, Silvia, dobbiamo fare una rivoluzione. Devi, forza, collega, dobbiamo ribellarci. Attenzione, alla Camera stanno passando una roba che io veramente... Andiamo a fare le barricate alla Camera. Allora, magari c'è dentro anche Direzione Italia, non lo so, chiediamola a Bianconi. No, al Senato per la verità è la proposta, arriverà anche alla Camera. La proposta di legge contro le fake news. Le fake news. Silvia, ma tu... Ma vada a fanculo. Ma no! Ma sì, ma al Senato! Ma Bianconi, che ti fanno le proposte di legge per andare nei giornali, no. E fare il giornalista contro Bianconi, ma siamo io e Silvia Brasca che dobbiamo fare la rivoluzione da giornalisti, non lei, cioè, no, insomma... Ma anch'io sono giornalista, sono pubblicista, ma sono giornalista, cioè la attenzione, la multa e anche il carcere, se uno pubblica notizie esagerate atte a turbare l'ordine pubblico, ma quali sono? Quali sarebbero? Mussolini avrebbe detto che insomma sembrava un po' troppo severo anche lui, una cosa così. Notizie false, esagerate o tendenziose? Silvia, quante ne hai pubblicate tu di notizie false, esagerate o tendenziose? No, io in galera non ci sarei andata per poter sistemare. Questo lo stabiliamo noi, senatori della Repubblica Italiana. Ed è un ex 5 Stelle quella che l'ha è un ex del 5 Stelle. Ma quella che ci sono tutti, Scelta Civica, Forza Italia, PD, Lega, ha avuto appoggio da tutti, bisogna vedere la prescrizione. No, Direzione Italia, intendiamo i tribunali. Direzione Italia, prima ci si lamenta che ci sono troppi processi e poi si inventano con queste cazzate, cioè voglio dire, ci deve essere anche un limite all'intelligenza. Non si può continuamente pretendere, in uno Stato in cui ha tutto ingolfato, di normare tutto per legge. Ecco. Leggevo stamani una cosa che non c'entra, ma ho visto che sono stati fatti soltanto 942 matrimoni gay. Diciamo gay, gay. E allora tu dici, ah, che l'avete voluto fare i matrimoni? Che scelta? Quella è una legge di civiltà, lo possono fare in uno e lo possono fare un milione, eh. Ed è un tipo di e si guida questo scandalo. Poi invece da quell'altra parte si vogliono leggi di questa fatta qui, che ingolfano i tribunali, offendono l'intelligenza. Ma anche perché poi, ma cos'è una notizia esagerata? Ma chi lo stabilisce? Chi è che esagera? Ah, questa notizia è esagerata. Ma chi lo dice? Renzi è bravo. Per me è una notizia esagerata, ma l'avete messo tutti in galera. Renzi è esagerato. Viva Renzi. Viva Renzi, è esagerato, via. Via, 2000 euro di multa, non so. Renzi non dice le bugie, tutti in galera. Eccola. Oppure non so, Direzione Italia è un nome un po' sballato, no, perché No, Direzione Italia è di sporchi comunisti statalisti, un affare così. Esagerato. Fake news. Qui c'è il carcere, esatto. Effettivamente. Sentite che testa che ci vuole. Vabbè, niente, qualcuno per somma di condanne, però lo sappiamo. Non dobbiamo in pratica fare la rivoluzione perché ci ha già salvato Bianconi. Impallinerà questa legge. Ma la libertà è una cosa sacra, sta l'interesse della gente. Insomma. Ma arriverà poi, la Camera poi? Ma arriverà la Camera? Quando arriva la Camera, che fa? No, arriva la Camera se passa. Sì, se passa, certo. Solo poi quando arriva la Camera bisogna che sia qualche imbecille che la metta a volo. È chiaro. Vabbè, ma se arriva a votare questa cosa, Bianconi... No, niente. L'altro giorno sono venuti a votare chi dava da mangiare in casa alla gente, doveva fare non so quanti esami, le piattaforme, l'ha votata tutti quella lì. Ah, quella dell'home ristorante a casa. Sarà una legge da imbecilli poco anche quella. Se vuole la piattaforma, sì. 5 Stelle subito. Vergogna. 5 Stelle ogni tanto si evidenzia per queste cose. Ecco. Vabbè, allora, visto che a grande richiesta lo voleva Silvia Brasca, sì. Dobbiamo dare il premio Giachetti. Lo volevi? Eccolo qua. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Guarda, oggi abbiamo parlato anche pochissimo di PD e meno male, perché la telenovela Conte. Tra l'altro si è lamentato questo della schiava Isaura che ho citato ieri. Tu te lo ricordi la schiava Isaura, la prima telenovela in Italia? No, perché la prima, caro, è stato Dancing Days, non è stata la schiava Isaura. Ma cosa, su Wikipedia c'era scritto così? Insomma, guarda che secondo me la prima era Dancing Days, poi è arrivata anche la schiava Isaura, ma la prima deve essere stata Dancing Days. La schiava di cui Isaura. Non ho perso una puntata. Ecco. Invece, se lo ricorda Bianconi, la schiava non Isaura. Non so di che cazzo parlate. Va bene, dai, andiamo al premio Giachetti. Forza Silvia, il premio Giachetti a chi lo diamo? L'ho già dato, sempre lui. È sempre lui. No, aspetta. D'Alema. Ah, D'Alema, accidenti, D'Alema. Ah, cioè, pensavi fosse il premio Giachetti, nel senso, va bene. Bianconi, il premio Giachetti. Il premio Giachetti lo do a Emiliano. Emiliano? Perché è Rossi. Perché come governatori di regioni così tutti bravi eccetera vengono a Roma a spendere soldi dei loro amministrati, non per amministrare la Puglia ma o la Toscana, ma per amministrare gli emeriti cazzi loro, questo non va bene. Eccolo lì. Ha scelto il nostro Emiliano e il nostro Rossi. E il suo Rossi perché, buttate via i soldi, voi che fate? Va bene. Allora, il premio Giachetti l'abbiamo dato. Oh, qui va bene, niente, ci impallinano la legge. Volevo chiedervi invece questa cosa. Sapete 25 anni fa che succedeva? Arrestavano Chiesa, ho letto da qualche parte. Arrestavano il Mariuolo, Mario Chiesa, così venne definito da Craxi. Mario Chiesa, 25 anni fa, l'inizio di Tangentopoli, cara Silvia. Me la ricordo bene. Te la ricordi? Sì. Oggi intervistano Luca Magni, colui, quell'imprenditore che fece arrestare Mario Chiesa, e dice peggio di prima, non ho più lavorato col pubblico, mi hanno tagliato fuori da tutte le commesse, tutte le gare, tutto, capito? Mi sembra che avesse messo all'asta addirittura la borsa, quella che portò al Albergo Trivulzio. Cioè, diciamo la verità. Ha fatto una cosa giusta